Ida, doble, il paseo ingoia, in demasiado, maciado, luciado, picadorado, se segna lui, Madrid, luz, re in re, alto re adorra, todo toro, a toro todo. Radio Faro, radiofonia. Quando escuchas la radio, ¿cómo es algo? En todo hay siempre más de lo que uno cree. Senti, ascoltatore, questi rumori di piatti e forchette di cibo deglutito. Questi rumori di pollo, pizza, lasagne, salame, mortadella, tortellini tritati e deglutiti. Radio escucha, radio oyente, hay ciudades que son in express di escucha. Glu glu glu glu glu, niam niam niam niam niam, niam. Glu glu glu glu. Toledo tu ledo nidoni al greco leda il cigno le da lede da salire in cattedrale a casale a moda di parole di variate alla moda di Toledo in proprio sapere. E le scorrialle esco dal coro, scorie scozzesi e tlavora e muncia ora trista velito, spartito fonorfo, a volte. E le scorrialle tu alto a letto, e sveglia ti para boscar qua e Arajuez, juego sin suez, sucia naranja que ti venga cangreca, música concreta, Arajuez, vega, oreja, su noche, 20 años en ventana, armas en plástico. Peñisco la vulvisco la fiera mosca, maius a nozze minus, colga l'alga, algida, renata, azarda, azar, luzar, arroz. Huesca o grandinesca, heart, eroina, Huesca, dinero, cabrero, comprera, cabronazo, beh, e coño del cazzo, adesso pesca, agitati, tutti, levati, niente, manitas. Altamira, Mirabello, ammiro e rimiro, a tratto sfera, attimo, atomo di buco, Altamira, al buio, bussola, predosa, flambeau, bison, e la cabala, amen, cavaglio, ale, amen. Radioterapia, radiotelegrafía. Cuando escuchas la radio, ¿cantas? El principio está solo en tu pensamiento. Senti, ascoltatore, chi canticchia, chi fischietta, chi gorgheggia, senti chi riempie di canto melodioso queste città invisibili. Non vedi, ascoltatore, le ugole, le gole, le bocche, le lingue rosse, le dentiere, i denti di chi canta? Radio, escucha, radio, oyente, hay ciudades que son invivibles. Tralallero, tralalla, tralalla, tralalla, tralallero, tralalla, tralalla, tralalla.